Le mani vanno sempre tenute lavate e pulite, diceva mio nonno, calabrese d'altri tempi, tozzo, rozzo. Le mani vanno sempre tenute pulite e lavate, lo ripeteva papà, Cosentino testardo. E io, figlio e nipote di calabresi, sono nato al nord, e mo sono un calabrese del nord, con le mani pulite. Un calanordico o un nord calabro. Fa tu. La Calabria la trovi dappertutto, se cerchi bene, ma pure se non cerchi, un pezzetto di calzetta magnogreca c'è sempre. La Calabria è in giro per il mondo, da sempre. E la Calabria, mio nonno e papà, se la sono portata al nord, tra calabresi con accenti strani che imitano quelli del nord, e quelli del nord che si mescolano ai calabresi e li chiamano terroni. Quel terrone che ci dicevano a nonno era offensivo. Quello che ci dicevano a papà era un'etichetta. Adesso il terrone al nord è diventato uno scherzo. Tradizione, va. Mi chiamano terrone tutti a me. Anche gli altri terroni. Terrone tra terroni. Nella terra del nord, dei terroni. Ma non mi ci piglio, ormai sono abituato. Anzi, forse è pure meglio essere considerato un calabrese. Perché io sono nato qua, al nord. E ci muoio, mi sa. Io, modestamente a parte, sono il campione dei campioni a scopa, a briscola e tre sette a perdere. Batta tutti. Liborio mi diceva sempre che io potevo diventare campione olimpico di carte, se solo me ne andavo fuori a fare i tornei. E il mio maestro è stato nonno Buonanima. Mi ha insegnato a contare le carte, a servire, lanciando le carte sulle mani dell'avversario. Così le vedi. E trucchetti che mo non posso dire. Segreto. Quando non avevo abbastanza soldi con me giocavo a pane. Puntavo il pane. A volte perdevo, a volte vincevo. E il più delle volte vincevo. Pure qua, batta tutti. Qua sono tutti polli. Qua si mangia male. Il pane è duro, puzza di muffa. Che io lo facevo il pane. Io lo facevo il pane. Mio padre faceva il pane, eppure nonno faceva il pane. Il pane. Una famiglia intera che ha fatto pane. Che fare il pane è un'arte. Mescolare, impastare, pestare, spargere la farina, infornare, sfornare, aspettare, annusare. Mescolare, impastare, pestare, spargere la farina, infornare, sfornare, aspettare. Annusare. È un'arte. Che quel profumo è unico. Ti sazia, quel sapore di pane che si sente dappertutto, ti entra dentro e ti droga, un profumo che sveglia la città, profuma la gente, che chi passa davanti alla bottega, se lo respira il pane, poi entra, dopo che ha respirato, lo compra sempre respirando, e poi ci ritorna, per respirare. Il pane è come l'aria, indispensabile. Tutti lo compravano il pane da me, e tutti lo compravano da papà, e prima ancora tutti lo compravano da nonno. Tanto di quel pane abbiamo fatto che il quartiere si è cresciuto grazie a noi, che il pane è il primo piatto della tavola. Non esiste tavola senza pane, non manca mai, non può mancare. Lo dice pure Dio nel Padre nostro, dacci oggi il mio pane quotidiano. Arrivavo al forno che era ancora notte e lo accendevo con la legna dei boschi. Lo scaldavo per bene. Certi panifici in altri quartieri che io ho visitato c'hanno i forni di elettrica. I forni di elettrica. Io no, io ce l'ho di legna, come papà e come nonno. Mentre il forno si scaldava arrivava la Caritas con il motocarro e si prendeva il pane avanzato, per i poveri. me lo pagavano. L'autista del motocarro se lo caricava e se ne andava. E secondo me qualche pagnotta se la portava pure a casa sua e se la mangiava arrostita al fuoco, con l'olio, l'origano. E tanto lo pagavano. Poco, scontato della metà della metà. Ma quello sempre pane, E per me sempre soldi erano. Poi mi mettevo ad impastare, sul tavolo di legno di noce che s'era fatto fare nonno, dove impastava papà. E poi io. Tanta farina impastavo, ma proprio tanta, quintali. Me la portavano dei camioncini, rossi. E io la impastavo, tanta che ero ogni volta che sembrava che dovevo fare pane per tutta la città. E invece il quartiere mio è piccolo, un brufolo nella città. Una strada che taglia, palazzoni di cemento e calabresi a pioggia. Le conoscevo tutte le persone che masticavano pane mio. Ogni tanto s'aggiungeva qualche forestiero, ma alla fine sempre quelli del quartiere erano, emigrati e figli di emigrati. Facevo i panini, i cornetti la mattina, le frese col buco, le frese senza buco, i francesini bianchi, i francesini integrali e i bocconotti, grossi così. Invenzione di nonno, quelli normali, di pasta frolla. Papà li aveva perfezionati con la pasta di mandorla, e io ci ho aggiunto le scaglie di mandorla sopra. E se no dicono che non cambiano mai le cose. O no? Ma il pane no, non cambia. Sempre uguale, rotondo così, e basta, nient'altro. E ci campavo. Coi soldi del pane nonno si c'è fatto una casa, e papà un'altra. E io mi stavo facendo la mia. Una casa grande. Ci volevo la piscina, ma l'ingegnere mi aveva detto che per fare la piscina doveva aumentare il prezzo del pane. E io non lo volevo aumentare il pane. E allora non ce l'ho fatta la piscina. Me ne andavo alla piscina comunale, con la vespetta. Ah, sotto Natale facevo pure i panettoni. Papà non li ha mai fatti, che nonno diceva che i panettoni li sanno fare solo i panettonieri milanesi. Ma io, modestamente a parte, lo facevo il panettone, ed era pure buono, ma senza l'uva passa, che a me e a tanti come me non gli piace. E forse non piace proprio a nessuno st'uva passa. Bingia, ma ce la mettono, apposta, sta cacarocciola siccagna, questo difetto nel mezzo della fetta. Che io mi ricordo che da sempre stavo con il coltello a cercare di cacciarle, ste uvette. Come i semini dell'anguria, no? Inutili. E per questo io, nel mio panettone di Natale, non ce ne mettevo. Che tanto poi il panettone a Natale nemmeno se lo mangiano. No, a me poco che non mi va. Poco che devo mantenere la linea. Passami il torrone, va. Inutile panettone. E però fa Natale. Io non ne facevo tanti, appositamente. Il giusto che servivano, per gli amici più intimi, per i clienti più affezionati. Panettoni grossi così, ma senza uva passa. E che se ci mettevo l'uva non li vendevo, perché l'articolo più venduto del mio panificio era... il pane. Che il pane lo metti con tutto. Pane e salame, pane e patate, pane e carne... pasta col pane, pane e formaggio, pane e cioccolata, pane e marmellata, pane e tonno, pane e pomodoro, le polpette di pane, il pane grattugiato sulla pasta, la bruschetta di pane fatta al fuoco. Io in certi pani ci mettevo pure l'oliva schiacciata. Mi costava un po' di più che l'oliva, si sa, è cara. Ma come lo vendevo? Ogni mattina i primi clienti mi chiedevano subito il pane con le olive. Erano i primi che finivo. E tranne quei 3 o 4 che mettevo da parte. Per gli amici più intimi, per i clienti più affezionati, per il consigliere che veniva sempre sul tardi e per Giacinto, il mio carissimo amico. Giacinto è ricco, ricco di famiglia. C'ha tanti di quei soldi che lui si potrebbe costruire tutte le piscine che vuole, però non se le fatte, per non dare nell'occhio. Che amico Giacinto! Ogni mattina, oltre alla panetta di olive, si prendeva 6 o 7 pani che portava a tutta la sua famiglia. Poi Giacinto, che io non lo smetterò mai di ringraziare per questo, mi ci faceva venire pure a Roberto, che c'ha l'esse lunga via Graf, e quello si comprava almeno 30 pani al giorno. Che ricordi! che pani, che profumi. Non sta puzza di muffa che invece c'è qua dentro. Che qua pure il pane puzza di muffa. Quanto mi manca il panificio mio. Che io, per farci venire più gente, m'ero pure inventato uno slogan. E l'aveva attaccato fuori dalla vetrina. Che mondo sarebbe senza il mio pane? Con che cosa te la mangi la Nutella? E ci aveva attaccato la mia foto col pane appena sfornato. Liborio mi diceva sempre di toglierla, perché se passava il capo della Nutella in città per vacanza, mi denunciava per copiatura. Mo, questo della Nutella non è mai passato, ma se passava magari io lo sapevo prima e la cacciavo. Anche se secondo me pure che lo vedeva non mi diceva niente. Liborio era solo invidioso, perché lui fuori dall'alimentare è diversi, ci teneva attaccata la propaganda della Nutella, quella vera, col pane senza sale di Firenze. E secondo lui l'avevo copiato. Il mio pane con la Nutella, modestamente a parte, era un capolavoro. Come cambiava il sapore della Nutella col pane mio. Il pane è tutto. La Nutella col pane senza sale di Firenze fa schifo. Il pane senza sale è proprio un'offesa al Padre nostro. A Firenze ci piace così, che gli vai a dire. Però quando i fiorentini assaggiano il pane nostro, cambiano idea. Forse non c'è mai stato un fiorentino rivoluzionario che si è ribellato a quella scelta del pane senza sale. Io me li immagino, sti fiorentini tristi, che non lo comprano apposta, perché ci vogliono il sale. E vanno a comprarselo fuori o all'Esselunga. Oppure ci mettono il sale sopra, o peggio, si comprano il pane finto nelle buste. Ma come si fa? Il pane è salato. Punto. E forse a Firenze c'è carenza di sale, chissà. E Liborio s'arrabbiava. Ma alla fine era di compagnia. Quando c'erano quei momenti, verso le 11:30, mezzogiorno, che non veniva nessuno né da me né da lui, ce ne stavamo davanti alla porta a chiacchierare. Che momenti! Certe volte al quartiere c'era una noia assurda. Eppure per questo, no? Il capo della Nutella che ci doveva venire a fare al quartiere nostro? E stavamo là. Oppure rinchiusi nel bar a giocare a carte. Quanto mi manca quel bel tavolaccio di legno per impastare. Sta plastica fa fare i grumi. E poi s'attacca. Sul legno non s'attacca. Non s'attacca. Non s'attacca sul legno. Non s'attacca. Una sera, mentre giocavamo a carte nel bar, prima che si era fatta l'ora che dovevo andare ad aprire il forno, è arrivato Giacinto, l'amico mio ricco. E con lui c'erano due forestieri, che non li avevo visti mai. Giacinto me li ha presentati, e li ho salutati come buona educazione. Mi hanno detto che erano terroni pure loro. Si sono seduti, hanno giocato. E li ho subito battuti a scopa. Gli ho offerto da bere, ridevano, erano contenti. Il giorno dopo questi due sono venuti al forno. Hanno cominciato a girare nella panetteria, a toccare il pane nelle ceste. Mangiavano e lasciavano il pane mezzo morsicato. Io lì per lì non ho detto niente. Si guardavano tra di loro e ridevano. Io non lo capivo perché ridevano. E allora ce l'ho chiesto. Il più vecchio dei due mi ha guardato e mentre masticava un panino si è avvicinato e mi ha detto che mi voleva proporre un affare. E io subito mi sono pensato che si voleva comprare il pane mio. E mi sono lavato le mani per ascoltare questo affare. Sto tipo mi guarda e mi dice: quanto ci vuoi dare? E io lì per lì mi sono pensato di pane. Quanto ci vuoi dare di pane? E ci ho detto così subito, senza pensare, che ci davo 50 pani al giorno con lo sconto del 40%. Al prezzo commerciale, no? Questo resta a guardarmi negli occhi, fisso fisso. Poi si gira dall'amico e ridono. Scoppiano a ridere e io mi sono pensato che forse 50 pani erano pochi o troppi e mi sono sentito ingenuo. Non sapevo che fare. Allora ci ho detto: fate voi. Mentre ridevano, l'altro s'avvicina, resta a guardarmi fisso fisso negli occhi. Smette di ridere e mi dice che loro mi davano la protezione e io dovevo pagare. Soldi, no pane. Soldi, no pane. Ma tu guarda sta plastica che fastidio. Ma tutte le bolle, fa tutte le bolle sta farina. Ma non si può avere la cialardo. Lì per lì mi si è gelato il sangue alla schiena. Ho capito chi erano quando l'altro ha fatto scivolare la catenella di Signore Gesù fuori dalla camicia. La firma, ecco, mi ha fatto vedere la firma e con che gente avevo a che fare. La paura è incontrollabile certe volte. Sì, confesso, senza vergogna, confesso che mi sono messo paura. Le ho accettato. 1.500 euro al mese, ogni 26. Passavano loro e se non passavano dovevo conservarli per il mese dopo. Ma quelli da quella volta sono sempre passati, puntuali e precisi. E che dovevo fare? L'eroe nazionale? Il panettiere che si ribella e caccia gli strozzini a colpi di francesina croccante? Li dovevo denunciare. Li dovevo denunciare, sì. Manco uscivo dalla porta che già lo sapevano fino a Varese. No. Scusami, scusami se ho accettato, ma io ho avuto paura. E poi papà pagava, eppure nonno pagava. Così mi ha detto uno di quelli mentre che se ne andava. 1.500 euro al mese, per 2 anni di fila, tanti, troppi soldi. Ed ero costretta a comprare la farina che mi dicevano loro, me la portavano quei camioncini rossi. Solo e sempre camioncini rossi, gli unici, i loro. La protezione, c'avevo la protezione, una sana e robusta protezione. Chi mi toccava? Nessuno. Da che cosa ero protetto se chi mi proteggeva erano gli stessi che mi potevano fare del male? Chi mi toccava? Mo ero protetto da loro, da Peppino e Nicola, due picciotti. Calabresi puro sangue, e da cosa loro tutta. E tu non ti permetti di dubitare, non ci pensi che la protezione è quella dei poliziotti, non ci pensi, diventi scemo, e ti aumenta la paura e paghi, perché vuoi stare tranquillo. E la tranquillità, senza che te ne accorgi, diventa collusione. Sì, così ha detto l'avvocato, silenziosa, penosa e vergognosa collusione. 1.500 euro. Versi la quota. Sei socio. Onorato socio del club. Disonorato. Mi vergognavo. Nel quartiere non l'ho mai detto a nessuno. Ma lo so che lo sapevano. Nemmeno con Liborio ne ho mai parlato. Ma lo so che lo sapeva. Nel quartiere lo sapevano tutti che c'era. Tutti lo sanno che c'è sempre. Tutti iscritti al club. Chi paga le quote, come me, e chi si iscrive con la tessera del silenzio, la più economica, tessera omertà. E non li puoi riconoscere i sani dai malati, ti sembrano tutti sani, anche i malati. Nessuno me l'ha mai detto, e a nessuno l'ho mai detto. Protetto, al sicuro. Guardia ca. Ho fatto. Guardia ca. Guardia ca, la pasta è pronta. Accendi il forno. Io faccio il migliore pane di tutto il quartiere. Faccio il migliore pane di tutta la città. Guardia ca. Mollica fresca, scorza croccante. Cull'alivi. Te lo faccio con le olive schiacciate. Guardia ca. Faccio il migliore pane di tutto il quartiere. Faccio il migliore pane di tutta la città. Scorza croccante, mollica fresca, cull'alive. Guardia ca. Faccio il migliore pane di tutta la città. Faccio il migliore pane di tutto il quartiere. Cresci, pasta, cresci. Fatti pane, cresci, pasta, cresci. Fatti pane, cresci, basta, cresci. Fa schifo, marescià. Avete ragione. St'impasto fa schifo. Tiene un sapore aspro, amaro. Avete ragione, marescià. Questo panettone è troppo dolce. Puzza, sì, in effetti puzza. E mo chi fa, marescià? M'arresti? Mi mindi i fierri? Bravo, marescià. Bravo. Arrestami. Ca non già fazzo chiù. Io non ci sto bene qua dentro. Voglio uscire. Ogni giorno quando mi sveglio mi viene voglia di aprire la porta e scappare via. 40 anni mi hanno dato. 40. A 75 anni che ci faccio fuori? Non c'ho ancora il figlio che mi manda avanti il panificio. Manco la moglie, c'ho. Una che mi piaceva c'era. Lisetta. Calabrese pure lei. Ma nata a Torino. Bella. Ci sono pure uscito una sera. Le avevo detto che avrei fatto un panino con il suo nome. La Lisetta. Come la Rosetta, no? E poi mi hanno arrestato. Mi hanno arrestato. Scusa. Ogni 26 del mese, puntuali come la mattina ogni mattina, Peppino e Nicola entravano nella mia panetteria. Ogni 26 non ne hanno mai mancato uno. Il 26 dicembre del terzo anno ero nel retrobottega a preparare l'impasto per i panettoni. Sono arrivati, puntuali e precisi. Essi sono messi a masticare tutto quello che trovavano, come sempre. Li ho visti da dietro alla tenda, con quegli occhi fatti di cattiveria, quei denti neri. Lisetta se n'era appena andata. Mi aveva invitato a cena a casa dei suoi genitori. Mi aveva detto che le sarebbe piaciuto diventare la moglie del panettiere del quartiere. E io avevo risposto che il panettiere in ogni paese del mondo c'ha sempre una bella moglie. Prima che quelle arrivassero avevo sfornato le lisette. Paninelli poco più grandi delle rosette, con all'interno l'origano. Un sapore delicato. E gliel'avevo detto a Lisetta. Le avevo detto che avevo inventato dei panini con il suo nome e che li avrei portati alla cena. Li avevo messi sul bancone ad asciugare. Ne avevo fatti 10. Solo 10. Una prova. Origano e farina, nient'altro. Semplici. Stavano lì, ingenui, inerti. Come l'amore. E quando la mano callosa di Nicola ne ha afferrati 2, se li è ficcati in quella bocca puzzolente di cadavere, e Peppino, dopo averlo assaggiato, uno lo ha sputato sul bancone perché puzzava di origano. Non ci ho visto più! Sono uscito da quella tenda con la furia di un pazzo. E con la pala per infornare il pane, prima ho spaccato la testa a uno e dopo all'altro. E sono rimasto lì, fermo. In mezzo a tutto il pane che mi fissava, quei figli che mi guardavano, sono rimasto freddo, fermo, in quel 26 dicembre di Santo Stefano maledetto. Nessuno in strada, non c'era nessuno in strada, nessuno. Liborio chiuso, Liborio. L'unica volta che avrebbe potuto assistere a qualcosa di entusiasmante per lui era chiuso. Rosso, festività, calendario che cancella un testimone. Peppino e Nicola a terra, con le teste spaccate, il sangue raggrumato, come taralli rossi in mezzo a polvere di farina che l'assorbiva. Ho chiuso la saracinesca, ho portato i corpi nel retro, ho scaldato il forno al massimo e li ho infornati, quei pezzi di bastardi. E cuocevano le gambe, la testa, le mani. E da dietro al vetro dove vedevo sempre i miei pani crescere, mo mi guardavo quella carne bruciare e puzzare. Madonna come si brucia la carne. La bistecca la salviamo sempre prima che si annerisce, prima che diventa carne bruciata, prima che sparisce. Bruciava, faceva fumo nero, e nella panetteria c'era odore di arrosto. Che profumo che avevano quei bastardi! Che bel profumo! Fino a qui tutto bene. Erano spariti. Nessuno li avrebbe reclamati. Ma quello che ho fatto dopo è stato il mio vero sbaglio. Dicono. Fissavo quella cenere nel forno, quella carne e quelle ossa incenerite, e di fianco l'impastatrice elettrica, mai usata. Con la pala ho raschiato quella cenere dal forno e l'ho buttata nell'impastatrice, con l'acqua, la farina e tutto il resto. Girava quella maledetta impastatrice, girava, e quella farina bianca cancellava la cenere, se la mangiava, amalgamava tutto in una bella bolla di pasta morbida, una bella pasta morbida, una bella pasta di Santo Stefano. La mattina dopo 20 panettoni erano sul bancone. 3 euro ciascuno, svendita post natalizia. Panettoni alla Peppino e Nicola. Li ho venduti tutti. Compreso quello al maresciallo, comprato da lui stesso per la cena di Capodanno a casa dei suoceri, che ci avevano un cane, Flock, un cane che si mangiava anche i dolci, ma che non si mangiava i panettoni ripieni di cristiani. Il maresciallo è sempre stato un ottimo maresciallo, un calabrese, che ha scelto di non iscriversi al club. Talmente ottimo che quella fetta di panettone l'ha fatta analizzare, grazie a Flock. E mi ha arrestato il 10 gennaio, appena dopo che Lisetta era uscita dalla panetteria, appena dopo che se n'era andata dalle mie labbra, appena dopo che avevamo scelto la data, il 26 aprile, la data delle nozze. Scusa. Quello che mi fa stare male è che adesso dicono che ho distrutto un'attività familiare di 3 generazioni. Dicono che sono un serial killer, che metto la gente nel pane. Ma quale gente? Quella non è gente. La gente vera, che non parla perché ha paura, lo sa che senza Peppino e Nicola per 2 mesi non ha pagato il pizzo. 2 mesi, sì, perché poi il club manda altri 2 Peppino e Nicola. E quelli che se ne stanno zitti e muti nelle loro case di cemento armato di cadaveri, lo sanno che la città è dell''ndrangheta, lo sanno. E sanno pure che se ammazzi per amore 2 ominicchi non risolvi niente. E nessuno ti ringrazia. E non si ferma niente. Si ricomincia. Anzi, si continua. Loro lo sanno. Tutti lo sanno. Ma non lo dicono. Tutti lo sanno. Tutti. C'hanno paura che gli tolgono da sotto i piedi quel cemento di merda, acqua e sabbia che si impasta, come il pane, come il pane. Sanno solo quello che raccontano, come favole. E mo raccontano che Giuseppe, il panettiere calabrese, nato al nord, nel pane ci metteva i cristiani. Compra il pan del Prestinterun, compra il pan del Prestinterun, il pane del terrone è buono. Il pane del terrone, il pane. Ho sbagliato, perché ho messo un poco di uva passa nel panettone, che quella, si sa, la schifano tutti, persino Flock, un cane. E basta. Nel pane mai, il mio pane. Che fare il pane è un'arte. E senza arte poi uno muore.